Foodlab, il cibo del futuro e il futuro del cibo, di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Tutti gli animali, umani compresi, hanno un naso. E su questo siamo tutti d'accordo, però oggi sono arrivati anche i nasi elettronici. Che però non servono per sostituire quelli che abbiamo. Ma in un certo senso, ecco, allora ascoltate a che cosa serve questa tecnologia che oggi vi raccontiamo a Foodlab. Per parlare di nasi elettronici, che abbiamo qui con noi? Allora, abbiamo Veronica Sberveglieri, intanto benvenuta. Grazie mille. Lei è ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Ottica del CNR e insieme a lei vorremmo capire innanzitutto, Federico, cos'è un naso elettronico, perché forse qualcuno non sa. Esatto, e che senso ha, perché questo oggetto, se deve odorare delle cose, deve avere un'efficienza, immagino, superiore a quella che potremmo avere noi. Sì, esatto. Il naso elettronico è quindi un device dotato di sensori. Il nostro in particolar modo si parla di sensori a nanowire. Nano? Nanowire è una nuova tecnologia. Attualmente dentro il nostro laboratorio Sensor Lab siamo i primi al mondo che siamo riusciti a sviluppare questo tipo di tecnologia, ed è una tecnologia che permette quindi di avere un sensore di una dimensione di circa 1 mm x 1 mm, quindi proviamo a immaginarlo, è davvero minuscolo, molto piccolo. Piccolissimo. Sì, esatto, proprio piccolo, però praticamente questi metalli semiconduttori crescono come una specie di foresta. E cosa fanno? In questo modo, quindi avendo comunque una superficie molto piccola, riusciamo ad esporre, avendo appunto una forma a foresta, a Shanghai, molto gas, cioè molto del nostro aroma, del nostro odore prodotto in particolar modo dagli alimenti, riesce comunque a circolare, quindi a essere comunque molto sensibile, ma riducendo la dimensione del sensore. Mi scusi, cioè questa foresta qui dove la mettete? Su una mela, su una bistecca? Com'è che è? Allora, loro stanno dentro una loro cameretta, perché hanno bisogno di lavorare ad alte temperature, si parla di 300-400 gradi, a seconda del tipo di metallo di cui stiamo parlando. E successivamente vengono esposti, quindi all'odore, c'è un piccolo device totalmente portatile. Quindi qualunque operatore finale della filiera può eventualmente utilizzarlo. Addirittura si parla di introdurre questo tipo di tecnologia direttamente dentro gli strumenti di casa nostra, quindi ad esempio un forno o un frigorifero domestico. Ma noi possiamo immaginarcelo, siccome appunto forse la maggior parte delle persone non l'avrà mai visto un naso elettronico, è uno scatolotto di quali dimensioni più o meno? Ma si aggira intorno ai 10x5 cm. Quindi piccolino. Quindi piccolo. Sì, portatile, esatto. Mi creava qualche problema il fatto che lavorino a 300 gradi, cioè dentro lo scatolotto ci deve essere quella temperatura? Sì, in genere sì, ma noi riusciamo comunque a dargli questa temperatura sfruttando i normali 9 volt che abbiamo a disposizione. Con una batteria? Sì, esatto, ricaricabile. Stiamo facendo anche addirittura ricaricabile tramite USB. Quindi si riesce a connettere a qualunque anche eventuale altro device per ricaricarlo. Dentro questo naso abbiamo i nostri 6 sensori, ognuno di questi è diverso e quindi è in grado di captare molecole aromatiche, olfattive diverse. Ecco, allora veniamo al dunque, nel senso che qui a Foodlab raccontiamo le tecnologie legate al cibo e in che modo, insomma, questo naso elettronico analizza il cibo e gli alimenti. Sì. Ogni alimento, crediamo, sia caratterizzato da una propria caratteristica, da una propria impronta olfattiva molto peculiare? Sì, esatto. Per noi food vuole dire partire dall'acqua e ad arrivare fino al nostro packaging finale. Quindi che cosa è in grado di fare? Prima di tutto va addestrato, perché come un essere umano, come un bambino, ha bisogno di un addestramento, gli va creato quello che normalmente viene chiamato database, in cui vengono raccolte le nostre appunto fingerprint olfattive degli specifici prodotti. Fingerprint sono le impronte olfattive. Esatto. E realmente appunto ogni prodotto è diverso, se come l'essere umano non l'ha mai sentito prima, uno specifico odore, non sarà in grado ovviamente di dirci che tipo di alimento sta annusando. Dovete creare un'esperienza artificiale, insomma, come per i bambini, insomma, che iniziano a imparare gli odori. Okay. Sì. E una volta addestrato, scusi, cioè questo scatolotto, possiamo pensare che venga messo su un banco di un supermercato dove ci sono i formaggi? Esattamente, questa è una delle nostre idee ultime, appunto, di lasciare la catena di produzione, lasciare l'azienda e arrivare più verso il consumatore. Ad esempio, appunto, dentro i banchi gastronomia, proviamo a immaginare dove possiamo appunto annusare l'odore di un formaggio piuttosto che di un salume da affettare. Cosa ci dice lui quando... Che tipo di formaggio è, oppure se è buono o è andato a male? Lì realmente siamo noi a decidere che tipo di informazioni vogliamo, nel senso che tutto sta nel tipo di addestramento che io gli faccio. Quindi ad esempio posso sia monitorare un'origine di un prodotto, quindi essere certa che il mio formaggio sia esattamente quello che io sto comprando. Lo addestro a sentire, non voglio fare pubblicità, vabbè, un pecorino sardo, via. Pecorino, esatto, grazie. Dopodiché lui sarà in grado di dire eventualmente anche quando è stato prodotto o in che zona, a seconda della sensibilità rispetto al singolo prodotto. Okay. Oppure possiamo anche dirgli, questo prodotto è il suo profilo standard, quindi è salubre, il consumatore lo può mangiare. Ma nel caso di possibili anomalie, di contaminazioni che possono essere di tipo chimico piuttosto che microbiologico, quindi qualche microorganismo che sta magari andando a cambiare il nostro prodotto, oppure la semplice shelf life del prodotto, allora possiamo fare un ragionamento nel dire è buono e cattivo, cioè ancora salubre per il consumatore, o meglio, ancora siamo addirittura più sensibili, ovvero riusciamo a dire anche per quante ore eventualmente possiamo ancora consumare il prodotto. Questo per i prodotti appunto a scadenza molto breve, quindi potrebbero essere i latticini, sì, piuttosto che le frutte. E questo serve sia per controllare la qualità, ma anche per diminuire lo spreco. Esattamente, infatti la nostra idea era di metterlo proprio dentro un frigorifero domestico, quindi ad esempio possiamo pensare, io faccio spesso l'esempio della fettina di pollo perché abbiamo lavorato su questo, quindi io casalinga mi compro la mia fettina di pollo, la metto in frigo e normalmente mi baso un po' sul colore e un po' la posso anche ad annusare io essere umano e dire se ancora secondo me è commestibile o meno. Ma realmente chi lavora in questo campo sa benissimo che questi due parametri non sono sufficienti per sapere se il prodotto è davvero salubre o no. Quindi cosa facciamo? Possiamo dotare il nostro frigorifero di casa di un array, quindi di un set di diversi sensori direttamente dentro il frigorifero. Dopodiché ormai tutti questi sensori sono collegati tramite Bluetooth o Wi-Fi a seconda della necessità, posso andare a vedere sul mio smartphone con una app se il mio prodotto è ancora consumabile o meno. Quindi anche al supermercato posso decidere se devo comprare dell'altro pollo perché eventualmente quello ho non va più bene, oppure dire no, è ancora commestibile e quindi posso evitare lo spreco di buttare un prodotto che invece è ancora tranquillamente consumabile. Posso comunicare con la mia fettina nel frigo anche quando sono davanti al banco della macelleria. Sì, questo è il futuro, parlare con la fettina. Va bene, e grazie mille, davvero interessante. Grazie, credo che insomma sentiremo parlare di questa tecnologia. Grazie Sberveglieri. Buona ricerca. Grazie a voi. Per oggi questo è tutto. Noi vi salutiamo, vi aspettiamo alla prossima puntata di Food Lab.